collaboratrice appunto del Canile. E, ciao, ci sei? Ciao, ci senti? Eccomi, ok, ciao, perfetto. Sì. E, ci vuoi raccontare brevemente, insomma, come state portando avanti la mobilitazione? Sì, oggi noi abbiamo manifestato in Piazza Venezia, siamo stati una grande percentuale di tutti i lavoratori, in particolare siamo 75 donne su 119 lavoratori. Oggi abbiamo voluto rappresentare quella parte lavoratori che non può fare progetti per il futuro. Noi da oltre 2 anni che chiediamo risposte a questa amministrazione non riceviamo nulla. Abbiamo fatto numerose manifestazioni, anche numerosi incontri con questa amministrazione, ma non riescono a darci nessuna risposta. Ci parlano di licenziamenti, ci parlano di CocoPro, ci parlano di tante cose, ed è molto evidente che loro non hanno assolutamente le idee ben chiare su come deve andare avanti la politica dei diritti degli animali. Noi lavoriamo da oltre 10 anni presso le strutture dei canili comunali, gestiamo 2000 cani del comune di Roma, ci siamo con fatica conquistati il nostro posto di lavoro, un contratto a tempo indeterminato che loro ci vogliono distruggere proponendoci dei CocoPro, che sappiamo tutti che non sono una garanzia, tra l'altro solo per una parte di lavoratori, per gli altri si parla di licenziamento. Noi abbiamo acquisito in 10 anni una professionalità, un'esperienza, molti di noi hanno scelto di fare questo lavoro per passione per gli animali, ma loro vogliono questa amministrazione. Non sembra riconoscerci il nostro lavoro e il percorso che abbiamo fatto in questi anni. Parlano di dare la gestione dei canili alla ASL, a quei stessi personaggi che 10 anni fa hanno dato in convenzione il canile di Porta Portese, i canili del comune di Roma, a canili come quello di Casaluca, sequestrato per maltrattamento e malversazione di fondi. Noi diciamo no perché in questi 10 anni abbiamo sviluppato una politica degli animali che deve migliorare e non tornare indietro. Abbiamo dimostrato a questa amministrazione una fortissima determinazione, una chiarezza su quello che vogliamo e andremo avanti sul nostro percorso. Oggi noi abbiamo voluto rappresentare quella parte di lavoratori, quella parte di donne, donne che hanno appena avuto dei bimbi, donne che ovviamente non ci pensano un attimo prima di mettere al mondo invece altri figli, con certo. Ovviamente uno scenario catastrofico che questa amministrazione comunale ci presenta per il prossimo anno e per gli anni futuri. Chiediamo di tenerci il nostro lavoro, perché comunque ce lo siamo costruiti da soli, con la nostra esperienza, con la nostra fortissima determinazione. Chiediamo questo, chiediamo delle risposte che non abbiamo. Un nostro collega è stato anche per oltre 11 giorni al 12° piano dell'impalcatura della Regione Lazio insieme ad altri 6 ragazzi. Sì. Con temperature anche al di sotto dello zero. Sì. Di sera, per ottenere un incontro con la Polverini. Questo, ecco, fa capire, evidenzia quanto le amministrazioni regionali, comunali siano assolutamente indifferenti alle problematiche reali dei cittadini, quei cittadini che non arrivano a fine mese, quei cittadini che hanno perso il lavoro in cassa integrazione, quei cittadini che non riescono ad avere una risposta da questa amministrazione. Certo. Noi siamo molto determinati, andremo avanti per noi, per il nostro posto di lavoro, per la nostra professionalità, per gli animali, perché comunque non permetteremo mai che si torni indietro. Noi vogliamo andare avanti, siamo molto molto determinati su questo, per cui le iniziative, insomma, non si fermano qui. Noi siamo uniti anche ad altre vertenze del territorio romano, con i Movimenti Uniti contro la crisi, perché comunque le problematiche sono tante. Certo. Ed è giusto anche condividerle e lottare insieme per ottenere insieme dei risultati. Certo, assolutamente. Noi insomma ti ringraziamo del tuo intervento.